24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Le 6:31 minuti, ci siamo anche oggi, ma è venerdì, cari ascoltatori. Eccoci qua, siamo in diretta fino alle 9, il nostro Alessandro Longoni è già lì in redazione, il nostro Peter Bescapel Alpino è già alla console. Ti piace questo termine da anni 50? Tanto tira sulla saracinesca del nostro bar, dove vedo già affollarsi gente. Non rispondo a nessuna domanda, vabbè, questa. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Ma perché non rispondi? Ma un caffè si può avere. Ma che è, il caffè tutti quanti? Dovremmo beccare quel giornalista che chiede in modo geniale a Nicole Minetti. Vabbè, ma un caffè, almeno un caffè. Il caffè a tutti quanti. Il caffè intanto c'è con noi Mario Adinolfi. Buongiorno, ben svegliato. Buongiorno, eccomi qua. Che ha appena twittato: qui non si dorme mai. Non si dorme mai. Infatti. Mannaggia. Saluto anche il presidente del Codacons, l'avvocato Rienzi. Buongiorno. Buongiorno. Bisogna dirlo Rienzi, non Renzi. Quello, no. Renzi, quello è partito. È partito. La vignetta sul Corriere oggi. Ha già messo, poi ci arriviamo. Ha già messo il camper in doppia fila. È partito col camper in doppia fila, ha bloccato due macchine. Chissà se a Verona gli è andato la multa. Noi alle 8:15 avremo il sindaco di Verona ospite, Flavio Tosi. Però io vi voglio leggere i titoli dei giornali che sono arrivati. Ripresa lontana, cadono i consumi, così il Sole, e poi un po' tutti ancora su quello che è successo in Libia e i problemi che abbiamo con Al Qaeda. Obama di fronte alla furia islamica per il Corriere della Sera, Repubblica, Islam, America sotto assedio, La Stampa, assedio alle ambasciate USA. Ma la notizia del giorno, visto che ho due che conoscono Roma profondamente, la politica anche profondamente, la notizia del giorno per me è Erbatman del PDL. Adinolfi, sai chi è Erbatman del PDL? Come no, fenomeno vero. Insomma. Fiorito! L'ex capogruppo del PDL in regione che si è fatto 109 autobonifici. Autobonifici. No, adesso vabbè, per te sarà gioco forza. Adesso questi sono del PDL, sono dei cattivoni. Ma pare il nuovo caso Lusi. Il nuovo caso Lusi pare. Cioè bonifici, ostriche, champagne, auto, bonifici, non so, cene eleganti, ovunque. Tutto questo con i soldi nostri. È questo. Ancora più grave quello che hanno fatto per anni alla regione, e non solo il PDL, anche quelli prima di loro, perché con queste leggi regionali ogni anno davano circa 800 milioni di euro a tutte soggetti, associazioni stranissime, quelle per la cura della formica rossa del paesino, cioè ogni consigliere praticamente destinava una parte di questi soldi all'associazione amiche sue. Noi siamo arrivati alla Corte Costituzionale che ha annullato la legge regionale che faceva questo. Cioè, era una prassi veramente folle. E certo, come c'è la legge Mancia alla Camera. Era una legge Mancia. La legge Mancia, cioè i consiglieri possono dare. Però, allora, Mario Adinolfi, intanto perché lo chiamano Erbatman del PDL? Oggi Francesco Merlo lo scrive come lo chiamano così da quando Francone Fiorito cadde da una moto ferma. E allora da allora Erbatman. Questa però è scandalosa, Adinolfi. Questi sono soldi nostri, questo è il problema. Ha detto delle cose molto importanti Rienzi. Poniamo grande attenzione alla spesa delle regioni, perché le regioni negli ultimi 10 anni hanno aumentato la spesa pubblica di 90 miliardi di euro. Io spero che questa storia davvero incredibile intanto riesca ad accendere qualche bel faro sulle spese della regione Lazio, dove diciamo tra vitalizi e la stessa Polverini ha detto tagliate altrimenti me ne vado sì, io. Cacciatelo, me ne vado io. Sì. È veramente incredibile quello che avviene alla regione Lazio, dove peraltro abbiamo un buco sulla sanità clamorosa. Però teniamo a mente questo dato: noi siamo sempre molto attenti alle spese della politica nazionale, eccetera, eccetera, ma le politiche delle regioni negli ultimi 10 anni sì. hanno visto aumentare la spesa di 90 miliardi di euro. No, ma questo bisogna dirlo: tocca quasi difendere le province, nel senso che tutti si accaniscono con le province, noi per primi, però ste regioni, le regioni è un disastro. Vi voglio far sentire l'analisi pacata, come sempre, che ha rilasciato alla Zanzara Mario Borghezio su quello che è Roma, così no, molto ragionata, molto pensata, molto approfondita, un'analisi quasi un editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Borghezio. Ma quello romano è merda, quindi sa, lì più che altro ci vuole un'opera di deratizzazione, ci vuole una grande compagnia di come quella che ha liberato provvisoriamente Napoli dall'assedio della schifezza, insomma. Lì più che altro problema di igiene, ecco, Renzi. Ricordiamo allora, non mi pare che chi parla sia nuoti in acque tanto pulite, eh? Vabbè, insomma, si sa, Borghezza così dice, vabbè, ma Roma è merda, cioè che di che stiamo discutendo, voglio dire. Non mi sconvolge la parola, che deve rispondere, cioè la faccio come il... loro hanno fatto uscire quello che hanno fatto uscire, di quello che combinavano, dai tu, anche la gente poi dice, ma io le ramanzine, le prediche le voglio sentire, ma lei chi c'ha la coscienza a posto? C'è proprio, non da Borghezio, non da un leghista. No, però la questione è questa, Dinolfi, oggi sul Corriere, Repubblica, tutti fanno paginate in realtà su questo tema che è stato tirato fuori dal Fatto Quotidiano, è una questione che riguarda, riguardato il caso Lusi ovviamente, per qui non facciamo, è una questione bipartisan, cioè di spese che ovviamente dove uno governa, laddove c'è il PD, laddove c'è la Lega, laddove c'è la... è il sistema che non va bene. Che possiamo fare noi cittadini che vediamo i soldi nostri? Perché questi sono soldi che vanno ai partiti, oltre ai 10.000 euro a testa di stipendio, arrivano circa, calcolo oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera e alla Regione Lazio, 144.000 euro a disposizione di ogni consigliere per farne collaboratori. Poi finiscono davvero questi soldi ai collaboratori, alle spese di rappresentanza, oppure che sono un gran calderone che va nel nulla? Pure se finissero sono clamorosamente troppi, cioè 144.000 euro sono tantissimi. Per farvi capire, i parlamentari hanno per i collaboratori 40.000 euro l'anno, insomma, cioè, questa è la cifra. Poi li tengono in nero, quindi. E allora, se queste sono le cifre, se Sergio Rizzo ha ragione, e io credo che non ci sia nessuno più documentato di lui, stiamo andando oltre il sopportabile, persino per la politica stessa. Qui faccio, insomma, da automembro della casta, diciamo così lo dico, con questo tipo di ritmo arriveremo veramente coi forconi sotto casa, perché è intollerabile. Io ripeto, non abbiamo per niente acceso l'attenzione sulle spese delle regioni, che io credo essere il vero buco nero della contabilità dell'Italia. Bisogna stare estremamente attenti, e ricordiamoci che tra l'altro il buco della sanità, che è il vero buco italiano, è fatto tutto ormai dalle regioni, che hanno competenza su questa materia. Tra l'altro l'84% del bilancio della Regione Lazio è fatto dalla sanità, e c'è veramente una trivella a terra che va in profondità, e sono soldi della comunità, della cittadinanza. Le regioni, oggi abbiamo anche altre storie su Formigoni, insomma c'è sempre tantissimo da scoprire, e nulla che ci fa star bene. Vuoi dire anche qualcosa a Borghezio o no? Lasciamo per come Renzi. Borghezio, che devo dire, che... insomma, ripeto, bel sito, dico solo bel sito. Bel sito, bel sito, che non è un bel luogo, è un bel... bel sito, l'ex tesoriere. A proposito, Renzi invece, l'ex tesoriere della Margherita, Lusi, pare che abbia chiesto tramite i suoi avvocati di continuare la detenzione preventiva in carcere in un convento, perché il problema è questo: non può avere contatti manco con la moglie, e la procura pare che abbia detto di sì, ora si esprimerà il GIP su questo, in un convento. Ma ce lo vede? Ma io se si decide una cosa del genere, ma invito tutti i carcerati d'Italia che magari devono stare in detenzione a chiedere di andare in un convento. Cioè, poi dopo si dice pure la casta del politico che riesce ad andare forse in un convento invece di stare in carcere. Vabbè, è una detenzione domiciliare. domiciliare, chiaramente, cioè non è in carcere. Certo, sì. No, certo, sì, però. Tra il convento e la casa, probabilmente lui, che ne so, adesso non voglio offendere i suoi sentimenti religiosi, questo pure che c'ha un motivo. No, ma adesso sta in carcere Lucy, no, io mi capito, risulta. Ma probabilmente proprio avranno contrattato l'avvocato con la religiosa, no, sai come avvengono queste cose, mica avvengono così, uno piglia, si sveglia la mattina e ci sente, allora domani gli arriviamo ad andare in convento. Se si va dal giudice e dice, beh, adesso lo possiamo mettere al domiciliare, e quindi dice, no, ma è troppo presto, cioè, guarda, allora avrei un'idea, lo mettiamo in un convento, così c'è tutta la motivazione religiosa, la motivazione dello spirito, eccetera. Penitenziagito, cioè, non lo so, pentiti, non lo so. Vabbè. Intanto, come detto, è partito Renzi, Renzi questa volta al sindaco di Firenze, è partito in camper, vabbè, ce l'hanno preso un po' in giro perché è partito in doppia fila. Sentiamo Bersania, è andato da Lilli Gruber due giorni fa, alla battuta sul motto, no, che ha scelto Renzi, vale a dire adesso. Sentiamo come ha risposto Bersani. Lo slogan che ha scelto è adesso. Le piace? Lei ne ha uno suo? Io rispetto tutti gli slogan. Però cioè, è stata tagliata la parte e dice e dopo, gli ha detto Bersani. Cioè adesso sì, e dopo. Cioè questo Adinolfi, Renzi, ci dobbiamo credere o è tutto un po' una truffa, il programma non manca? Ha avuto tanto molto coraggio perché a 37 anni candidarsi alla premiership, che ricordiamoci lui si candida presidente del consiglio, cioè questa è la scelta, cioè, in un paese che è certamente un paese per vecchi, a 37 anni vedere un ragazzo coraggioso gettarsi nella mischia, secondo me non è male, anche perché diciamo sempre che ci vuole il rinnovamento, insomma, qualcosa significa se finalmente abbiamo un esponente, diciamo, under 40. Sì, ma uno che chiede i voti dai delusi di Berlusconi, cioè, ma adesso inizia la tiritera, ecco, Renzi guarda a destra, Renzi dovrebbe candidarsi di più. Oggi parleremo praticamente solo di questo nel circolo politico, e anche questo io invece l'ho detto anche ieri, l'ho trovato una cosa positiva, se finalmente abbattiamo questo steccato per cui chi votava contro Berlusconi e chi votava per Berlusconi si devono per forza guardare in Cagnesco, come se ci fosse una differenza antropologica, diciamo così, scatenando anche un po' di odio, perché c'è stato l'anti-berlusconismo come categoria in questo paese, io penso che si faccia un'operazione tutto sommato ragionevole, perché sono convinto che poi le esigenze dei cittadini per tornare a Batman sono più o meno le stesse. Batman è grandissimo, Batman. Ieri l'abbiamo invitato via SMS, ma figurati, non ci ha manco risposto. No, non ci ha manco risposto. Avvocato Renzi, lei Renzi come lo vede? Così da cittadino? Guarda, le sembra uno che è un contenitore vuoto di grandi slogan, oppure può essere un... Io francamente penso che sia quello che ci dobbiamo aspettare, perché diciamo la verità, adesso non offendo nessuno, ma insomma, dei Veltroni, D'Alema, Berlusconi, ci siamo stufati, cioè adesso basta. Le veniva una rima che si è lasciata sfuggire l'occasione, D'Alema, Veltroni e Berlusconi, ci siamo stufati, qua siamo al bar di Radio 24, può fare le rime baciate, se proprio vuole. Vabbè. Anche un orario, comunque, insomma, quindi, secondo me se ne devono andare a casa, allora, la gente quindi si aspetta questi Renzi, che sono vuoti, perché io avrei voluto sentirvi parlare di perché i negozi che chiudono, la crisi dei consumi. Niente, da quel punto di vista, per ora niente. Allora, non è un dibattito su cosa sarà meglio domani per l'Italia, se quello farà A, B, C e quell'altro D, E, F. È che la gente dice, io voto Grillo perché mi sono stufato. Guarda, votare Grillo oggi anche soltanto per dire, pigliatevi una bella mazzata per una volta, così ve ne andate una buona parte a casa, poi vediamo, tanto non è che può durare a lungo, credo, il casino. No, infatti la gente dice almeno basta, almeno facciamo almeno un po' di piazza pulita. È un'interruzione di una storia che ci ha stufato, ma non che i tecnici, attenzione, siano stati la panacea, che bello sono arrivati i tecnici, no. È che siamo stufi del passato, di tutta questa storia di anni di sprechi di soldi buttati, come dicevate prima, che non sono solo quelli della sanità, che la sanità almeno sono buttati in letti inutili, sono buttati in farmaci sprecati, che sembra una cosa meglio che non dare tutti i nostri che... alle associazionucce dei vari consigli. Sì, meglio quello che ostriche, champagne, BMW e forse anche un po' di escort. Le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del Forno. Vabbè, l'hanno anche reppato, Maria Di Nolfi, l'hanno reppato questo Cesaro, Grande Cesaro. Sì, vabbè. Ha superato Rutelli. Rutelli che torna nel PD. No, Maria Di Nolfi, tra l'altro, diciamo, è deputato del Partito Democratico. Uno che le primarie le ha fatte, quindi conosce questo meccanismo, questo cos'è, un tritacarne, no? E... molto faticoso e alla fine anche un po' un circo. Renzi ce la farà, perché Renzi ha detto... Manco mio figlio mi voterebbe. C'ha 11 anni e mi ha detto che pur di tenermi a casa voterebbe Bersani. Fortunatamente non potranno cambiare le regole per cambiare lo statuto e farlo votare. Allora, senti, allora abbiamo recuperato Bersani, che dice? Renzi, sentiamo Renzi. Sì, Bersani, Renzi ovviamente. Agnese, pietra angolare della mia famiglia, a Francesco, a Emanuele, a Ester. Loro sanno che li costringo a una scelta che in questo momento tutti e cinque avremmo voluto evitare. Francesco, 11 anni, ha espresso con chiarezza il suo convincimento e mi ha detto che fa il tifo per Bersani. Voglio dire a Pierluigi che ha 11 anni, qualsiasi regola il PD possa inventare, non credo che lo faranno votare, quindi sono molto qua, sereno. Adinolfi, comunque la frecciatina sulle regole delle primarie doveva darla. È stato bravo. La partita vera si gioca lì, se saranno primarie veramente aperte, sarà una sfida aperta. Ma che vuol dire? Come può truccare le regole per le primarie? Però semplicemente, se per esempio si obbliga la gente a andarsi a registrare una settimana prima del voto, le primarie avranno una partecipazione molto più bassa rispetto al fatto che uno si possa registrare al momento del voto. E quindi una cosa è se votano 2,5 milioni di persone, una cosa è se votano 500,000 persone. Sono platee completamente diverse e Matteo ovviamente ha più probabilità se votano molte persone, quindi fare le regole come sempre è come sulla legge elettorale, insomma, non è mai un elemento neutrale, insomma. Bisogna capirne di regole, perché poi i politici professionisti hanno questa caratteristica, sanno costruire molto bene per le righe del campo e inventare che forme di potere hanno. Chiamarsi a che c'è, avvocato Renzi? Dicevo che poi se ti costringono sempre a dichiarare di essere di quel partito, e molti che simpatizzano per la sinistra, per esempio, non ce vanno. Ma lo fanno perché sennò i berlusconiani vanno a votare. Renzi. Ma tanto i berlusconiani, se vogliono andare, lo fanno apposta, vanno e lo dichiarano. Appunto. Quindi non è quello che risolve il problema. Cioè, tu più lacciuoli, diciamo così, metti, meno è una vera consultazione popolare. Certo, bisogna evitare i truffatori, quelli che vanno apposta per fregare uno dei due. Ma questo mi sembra abbastanza difficile. Intanto c'è da dire che c'è il mistero su Berlusconi, è un mistero fittissimo. Oggi Micaela Biancofiore, nell'intervista Clou a Repubblica, dice: la gente lo invoca, Silvio ti prego torna, ci manca il tuo esempio di vita, non so, forse ha voluto anche un po' esagerare. Adinolfi, che fa Silvio Berlusconi? Perché intanto incredibilmente già letta l'intervista a Biancofiore scritta dal mio amico Concetto Vecchio, ed è francamente spettacolare. Torna la gente, ma voi non sa la gente che mi ferma e dice: Silvio torna. Non so che gente frequenta, però c'è l'esempio di vita, e poi parte subito la domanda sul bunga bunga. È chiaro. Ma comunque, anche seguito di Repubblica, il bunga bunga ha rotto un po'. Comunque la verità è che il centrodestra non ha alternative. La cosa drammatica è che il PDL non riesce a far maturare una nuova leadership. Io ho sperato, l'ho anche scritto in passato, che la dialettica del 2013 per la premiership fosse un bello scontro fra Alfano e Renzi, due di 40 anni, In Olanda hanno votato l'altro ieri, i due candidati premier avevano uno 41, l'altro 45 anni. Se dobbiamo ancora stare attaccati al ritorno di Berlusconi eterno, vuol dire veramente questo centrodestra ha una difficoltà seria di classe dirigente e mi dispiace per la democrazia italiana che sia così bloccato. Detto questo, da giornalista fotografo il fatto che l'eventuale ridiscesa in campo, diciamo così, di Berlusconi dà comunque al PDL la possibilità di prendere qualche punto in più rispetto a al qualsiasi altro leader maturato da quel partito. Questo però pone un problema a quel partito. Penso che insomma il campo del centrosinistra, pur malandato, pur nelle sue grandi difficoltà, con queste primarie dimostri una vitalità diversa da chi si deve attaccare solo a Berlusconi, insomma. Sarebbe ora che insomma un bel gruppo dirigente giovane del centrodestra italiano si affacci alla leadership, e Alfano da questo punto di vista dovrebbe forse avere più coraggio. Sì, ma non si capisce, Renzi torna, non torna? Ma noi ci dimentichiamo che il PDL era una cozzaglia di persone non politiche basate tutto sul carisma di Berlusconi, cioè il grande imprenditore che è bravo perché si è arricchito, quindi sa fare gli affari, sa fare l'impresa, eccetera, eccetera. E che adesso la gente, poi veramente molti dicono, tanto a Berlusconi, perché con Berlusconi sembrava che i problemi non esistevano. E quindi adesso che siamo veramente, guardi, sono veramente oberati, cioè abbiamo paura del futuro perché non gliela facciamo veramente con i soldi. Allora perché? Siamo stati tanto bene con Berlusconi, può tornare. Meglio che torno lui, almeno ci risolleviamo un pochino, cioè, non è tanto da meravigliarsi. Allora, no, io il mio bar lo chiudo per il momento ringraziando Mario Dinolfi e Carlo Renzi, presidente del Codacons. Rientriamo alle 7:20 con la lettura dei giornali. Il titolo più spettacolare di oggi, lo devo dire, è questo, è di Libero: Allah vuole altro sangue. Allah, lo avranno intervistato, boh, chissà. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Eccoci qua nuovamente alle 7:21 minuti. Allora, cari ascoltatori, vogliamo approfondire la lettura dei giornali dopo avervi ricordato che avremo ospite il sindaco di Verona, Flavio Tosi, della Lega, alle 8:15, proprio all'indomani della partenza di Renzi con le primarie proprio da Verona. E poi parleremo di un fatto di cronaca alle 8:30, ricordate il 2011 forse, quando a un posto di blocco dei ragazzi aggredirono dei carabinieri, un ragazzo di 20 anni aggredì un carabiniere che dopo essere rimasto in coma un anno è morto di recente. Questo ragazzo di 20 anni qualche giorno fa, è in attesa del processo ovviamente, è stato invece tolto dal carcere e verrà affidato alla comunità di Don Mazzi per iniziare il recupero ancor prima del processo. E parlerà con noi la vedova del carabiniere, Antonio Santarelli, sarà nostra ospite e ci racconterà ovviamente la delusione per questa decisione del giudice, ma ne parleremo alle 8:30. Ora andiamo a scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo venerdì 14 settembre, intanto uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore apre sulla ripresa lontana, cadono i consumi. Tra l'altro vi ricordo che oggi è in edicola 2 euro perché è in allegato anche il libro di Guido Gentili, Manovre in corso. L'apertura invece sulla situazione internazionale legata al terrorismo, Corriere della Sera, Obama di fronte alla furia islamica. Per La Stampa, assedio alle ambasciate USA, Repubblica, Islam, America sotto assedio. Mentre le aperture politiche per il giornale, adesso il PD è morto, tutti contro tutti. Il Messaggero invece, meno lavoro con lo statuto, è la frase di Monti che ha fatto discutere e fa anche dare il pretesto al Manifesto per il titolo Occupy Monti. Libero invece, sotto le tasse niente dopo 10 mesi di governo. Il Fatto Quotidiano invece, ancora la trattativa Stato-Mafia, la consulta spiffera, ha ragione Napolitano.

buongiorno a voi. Ieri però il protagonista della società era un altro, era Renzi. Ma com'è che non vi siete incrociati? Che è successo? Ma ha chiamato lui dal camper mentre arrivava, che era in autostrada, che era in ritardo perché aveva portato a scuola i figli e quindi aveva un po' di ritardo e quindi no, diciamo, gli è saltata l'agenda e ha dovuto... stringere i tempi. Che immagine umana, eh? Cioè, ho dovuto accompagnare i figli, quindi non posso venire. Ma l'ha chiamata dal camper in doppia fila o no? Perché hai visto? No, era in autostrada. Era in autostrada. Ma è vero che, vabbè, poi parlando di cose serie, ma è vero che ha parcheggiato in doppia fila? Passava un vigile, sa che notizia se un vigile della Verona leghista dava la multa al camper di Renzi? Ho letto sul giornale che sarebbe stato lasciato in doppia fila, però sinceramente non sono andato a verificare, anche perché è chiaro che nel contesto di una manifestazione politica è un contesto diverso, insomma, non è che gli si debba fare lo sconto, ma era una manifestazione politica, aveva chiesto gli spazi, aveva comunicato la manifestazione, insomma, sì, tutto in regola, è tutto una cosa regola. Insomma, diversa dalla prassi comune. Senta, ma perché anche oggi Maroni in un'intervista alla stampa dice: mi è simpatico Renzi, so che anche lei dice mi è simpatico, ma tutto questo endorsement di altri partiti è più simpatico a quelli degli altri partiti che a quelli del PD, insomma. Sì, questo quello è la battaglia che sta conducendo Matteo Renzi, è legata a questo, al fatto che anche in Lega è successo a me, a Maroni, non molto tempo fa, questioni di, chiamiamolo, fuoco amico, quando hai qualcuno all'interno del tuo movimento che siccome gli fai ombra, gli dai fastidio, perché magari uno ti teme politicamente, cercano di farti fuori. E in Lega adesso c'è stato un profondo cambiamento in questo senso e si è arrivati a una piena democrazia interna, cosa che nel PD non c'è, perché hanno cambiato nome, hanno cambiato simbolo più volte, ma la nomenclatura è ancora esattamente quella, e la nomenclatura ha paura di Matteo Renzi come aveva paura prima di Chiamparino, cioè di quelli che magari sono bravini, e allora siccome sono bravini meglio tenerli da parte, perché si sa mai che crescono. Funziona così, funziona così in politica, sì. non solo in politica. Lei dice l'ho sperimentato o ha tentato di farlo sperimentare anche sulla mia pelle nella Lega. Infatti sì, Maroni la definisce un rottamatore un po' come Renzi, cioè anche Tosi ha rottamato. Beh, anche Maroni ha rottamato. Sì, certo. In realtà questo processo di cambiamento l'abbiamo fatto io, lui e tanti altri amici, insomma. Ed è stata una cosa positiva, perché adesso appunto la Lega ha avuto una stagione di congressi, dei congressi veri, un ricambio vero e nuova linfa per ripartire, e Renzi sta cercando di fare la stessa operazione all'interno del PD, e lì bisognerà vedere le regole che metteranno sulle primarie, perché non vorrei che truccassero le regole del gioco per fargli perdere la partita. Addirittura c'è questa possibilità, truccare che le regole, che poi cosa vuol dire? Come si può fare a truccare una regola di una primaria? Beh, è semplice, ma dipende come le metti giù le regole, cioè dipende chi fai votare e come, è molto semplice. Per esempio, se gli iscritti, se devono andare a fare l'albo degli elettori, cioè, vabbè, ma comunque cose... Che meccanismi metteranno? Se fanno una griglia troppo vincolante, vuol dire che avrà vinto la nomenclatura, che pur di mantenere gli scranni blindano il sistema delle primarie. Se fanno le primarie realmente aperte, quello sarebbe un bel segno di democrazia, di apertura al confronto vero con i loro elettori, però è chiaro che in quel caso Matteo Renzi se ne avvantaggia. Ma secondo lei può vincere addirittura? Io penso che se ci fosse un voto degli elettori del PD, perché poi è chiaro, sì, che gli elettori del centrodestra, lui ha fatto appello anche a loro, agli elettori del centrodestra, delusi, gli elettori del centrodestra non dovrebbero andare a votare alle primarie del PD. Cioè sì, ma in realtà lì c'è un giallo, perché pare che lui l'abbia detto per le elezioni, cioè per le future, cioè se divento... Allora è già diverso. È diverso. Perché l'avesse detto per le primarie, insomma... Sì, sarebbe clamoroso. Sbagliato che un elettore di centrodestra vada a influenzare l'esito di una cosa che di fatto non lo riguarda. Mentre invece, per quanto riguarda gli elettori del PD... in senso largo, se vanno a votare gli elettori, per Matteo Renzi è più facile affermarsi, se va a votare il partito e quindi gli aderenti in senso stretto, è chiaro che lì la nomenclatura ha più margine. Vince. Senta, lei ha detto, vedendo alle elezioni, alla Lega, cosa dovrà fare, anche Maroni oggi ribadisce, probabile che andrete da soli, piuttosto che allearci nuovamente col PDL, mi sparo, lei, Flavio Tosi. Beh, non è che mi sparo, credo che sarebbe da spararsi allearci col PDL, perché la pistola ce l'ha, mi devo sparare sul serio per coerenza. Ce l'ha la come c'ha la pistola? Lei c'ha la pistola? Beh, c'è un porto d'armi per difesa personale. Ma gira come il sindaco di Taranto con la pistola? No, perché ho la tutela, quindi non mi serve. Però attenzione, perché il sindaco Flavio Tosi ha il porto d'armi. Cioè. Beh, vado a caccia. Sì, vabbè. la Lega cosa deve fare? Deve andare da sola? È questo anche il senso del rinnovamento che avete portato avanti? Beh, direi che sarebbe coerente e sarebbe difficile fare qualcosa di diverso, perché con quella che è la situazione al governo, con i provvedimenti che questo governo sta prendendo purtroppo a discapito delle famiglie e delle imprese, perché la crescita la fai solo riducendo la spesa pubblica non la toccano, il debito pubblico continua a salire, e quindi con questa linea che è deprimente rispetto all'economia e devastante rispetto a quella che è la situazione, perché Monti ha pure avuto il candore di ammetterlo che ha depresso l'economia per salvare il paese, invece ha depresso l'economia ma non ha mica salvato. Siamo messi peggio di un anno fa, perché adesso sono ancora più avanti. Lui dice l'ho fatto, era necessario, ma vedrete più avanti, vedremo più avanti che fa ponte con il baratro e così siamo a posto. E quindi con una situazione come questa fare un'alleanza con chi lo sostiene, perché il PD e il PDL fanno i distinguo e dicono una cosa, cioè cercano sul territorio di far finta di dissociarsi dalle scelte più dolorose e più sbagliate di questo governo, ma poi gli votano sempre la fiducia su qualsiasi cosa. Senta, c'è un fermento indipendentista, mi pare di capire, nel Veneto. Qualcuno ha chiesto anche al governatore Zaia di fare promuovere un referendum per l'indipendenza del Veneto. La vede una cosa, un'eresia, oppure una cosa possibile? No, allora, c'è un aspetto teorico e un aspetto pratico. Nell'aspetto teorico ognuno può avere le sue idee e quindi uno può propugnare l'indipendenza del Veneto, la secessione della Padania e quant'altro, da un punto di vista astratto. È un'idea assolutamente legittima, nel senso che uno può augurarsi e desiderare che ciò avvenga. Poi c'è quello che invece è praticabile. E siccome il referendum, per essere referendum, deve essere una cosa istituzionale, altrimenti fai gazebo e chiami la gente gazebo, ma se vuoi fare un referendum devi farlo con tutti i crismi. Un referendum con tutti i crismi su quel tema sarebbe incostituzionale, sì. Siccome la Costituzione prevede che l'Italia sia una indivisibile. Sì, certo, la secessione non si può fare. A questo punto allora accogliete con scetticismo o positivamente l'idea della macro regione rilanciata da Formigoni, cioè Piemonte, Lombardia e Veneto, oppure vi siete un po' arrabbiati perché l'ha lanciata lui? Ecco. No, perché l'abbia lanciata lui, il punto è dove si arriva, cioè che risultati ci portano a casa, perché l'impressione è che Formigoni è parte del PDL del Nord, per cercare di ingraziarsi l'elettorato del Nord, che si sente penalizzato da questa situazione ed è oggettivamente penalizzato, e allora dicono difendiamo il Nord, ma mettere assieme le regioni del Nord, prima un aspetto è quello come le si mette assieme, perché fare una fusione fra le tre regioni vorrebbe dire di fatto fare una specie di super Lombardia che governa anche sul resto del Nord, ma questo è l'aspetto meno importante rispetto a quello vero, che è, e una volta che l'hai fatto, qual è l'obiettivo? Perché mettere assieme le regioni per metterle assieme non è che alla gente gli cambi qualcosa. Cioè, se c'è più potere rispetto a Roma, bene, se no non ha senso. Più autonomia e più soldi, cioè più soldi nel senso la possibilità di trattenersi più risorse sul territorio. E su questo il PDL fino adesso non è che si sia espresso, e soprattutto non so se abbia il coraggio di andare al voto a Roma su questo tema, ed è lì il confronto vero, perché fingere di difendere il territorio è una cosa, difenderlo sul serio vuol dire andare a Roma e votare insieme alla Lega, io spero insieme anche al PD, cioè insieme a chiunque ci stia, una maggiore autonomia fiscale per i vari territori. Senta, in conclusione devo chiedere una battuta su un recente convegno in cui Marco Reguzzoni, col quale no, diciamo la verità non corre buonissimo sangue, era l'ex capogruppo alla Camera della Lega, ha detto Umberto Bossi è come Gandhi, ha subito tutto ed è rimasto in silenzio. Lei che pensa? Penso che pur riconoscendo a Umberto Bossi dei meriti, gratitudine da parte del sottoscritto, perché se sono sindaco di Verona lo devo principalmente a lui, e la Lega l'ha costruita lui, si è sacrificato per la Lega, quindi non disconosco ciò che ha fatto per la Lega, per i militanti, per il nostro territorio, Umberto Bossi, però il paragone mi sembra un tantino esagerato. Sì, beh, questo sì. Bossi Gandhi è un po' azzardato, ma chiunque è Gandhi è un po' azzardato. Però voglio dire, vede, i tempi della politica sono passati pochi mesi, sembrano passati anni rispetto alla legge, no? Qualche mese fa eravamo tutti a discutere l'ex tesoriere, Belsito, Boss, eccetera, proprio dimenticato, cioè i convegni, ci sono poche persone, è così, sono le dure leggi della politica? Penso che rientri nella normalità delle cose, adesso c'è un nuovo segretario federale che è Roberto Maroni e quindi chi ha il ruolo di Umberto Bossi, il ruolo di Umberto Bossi in Lega è quello del padre nobile, del fondatore, e quindi quel tipo di ruolo prevede un profilo diverso, il segretario federale è quello che tiene i comizi, che trascina le folle, il padre nobile dovrebbe fare padre nobile. Che è un modo di dire che non fa niente, sindaco Tosi, no, cioè, fa il padre nobile. La stima, l'affetto e la grande riconoscenza, ma sincera, lo dico con molta sincerità, da parte dei militanti, però non è più il capo del partito. Non fa quello. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Grazie a Flavio Tosi, il sindaco di Verona della Lega, ci ha parlato un po' sia di Renzi, visto che Renzi è partito da lì, da Verona col suo giro in camper e della Lega. Noi tra 4 minuti vogliamo parlare di un fatto di cronaca terribile che è avvenuto nel 2011 ma che è molto attuale. Forse lo ricordate, una pattuglia di carabinieri fermò dei ragazzi reduci da un rave e siccome stavano per ritirare la patente al guidatore 19 anni perché era fuori con l'alcol test, questo ragazzo ha aggredito i carabinieri con una spranga. Uno dei due carabinieri è morto. Questo ragazzo deve rispondere ovviamente di omicidio volontario e anche di tentato omicidio per il secondo carabiniere, ma la decisione di qualche giorno fa che ha fatto molto scalpore è che il giudice ha deciso di scarcerarlo e lunedì andrà nella comunità di Dommazzi, ancora prima del processo, della conclusione del processo, per iniziare già il recupero. Ha solo 20 anni questo ragazzo, per carità, però ci sarà con noi la vedova del carabiniere ucciso tra pochi minuti per raccontare la sua profonda costernazione per quella che è una decisione che, dice sinceramente, non capisco. Siamo qui allora, cari ascoltatori, alle 8:35 minuti. Come anticipato prima della pubblicità, vogliamo parlare di un fatto di cronaca che avvenne il 25 aprile del 2011, quando una pattuglia di carabinieri ferma una macchina, a bordo ci sono alcuni ragazzi reduci da un rave party, il guidatore è trovato positivo all'alcol test e quindi i carabinieri stanno notificando il ritiro della patente per Matteo Gorelli, 19 anni, che è al volante, quando questi due carabinieri vengono brutalmente aggrediti alle spalle dallo stesso Matteo Gorelli con un oggetto. Uno dei due carabinieri perderà un occhio, uno dei due carabinieri invece purtroppo perde la vita. Rimane ucciso il carabiniere Antonio Santarelli. Il ragazzo che ha compiuto questa brutale doppia aggressione ovviamente ora deve rispondere di omicidio volontario e di tentato omicidio per il secondo carabiniere, ma con una decisione che ha fatto molto scalpore. In attesa del processo che sta andando avanti, il giudice ha deciso che lunedì prossimo, lunedì 17, questo ragazzo potrà già uscire dal carcere. Andrà nella comunità Exodus di Dommazzi per iniziare il recupero, un proprio percorso di recupero. Una decisione che immagino abbia fatto molto scalpore anche nella mente della vedova del carabiniere Antonio Santarelli, che ringrazio per essere qui con noi, la signora Claudia Francardi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Signora Claudia, buongiorno. Buongiorno, con lei noi abbiamo chiamato anche Don Gino Rigoldi, che è il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Don Gino Rigoldi, buongiorno. Buongiorno. Una persona che di disagio giovanile a tutti i livelli se ne intende moltissimo, se ne occupa da tanti anni. Senta, signora Claudia, lei ha già parlato di decisione scandalosa. Cosa prova soprattutto di scandaloso in questa decisione del giudice? Allora, guardi, io mi sento tradita in questo momento, perché io ho sempre parlato in termini buoni. Io Matteo ho sempre pensato e ho pensato sempre anche al suo recupero. Ovviamente il mio pensiero primario è sempre stato per mio marito, per Antonio, quando era in vita, anche adesso che non c'è più, per mio figlio, per tutti quanti. Però ecco, la rabbia è questa, mi sento tradita perché sia dai giudici sia dagli avvocati di Matteo, da Matteo stesso, mi parlano di pentimento di Matteo, io ci voglio credere, lui dice devo comunque scontare tutta la mia pena, ma il tempo per andare in questo centro Exodus è sicuramente troppo veloce, cioè io credo che in questa fase Matteo debba stare ancora in carcere, se è veramente così pentito come lui dice, e questo io mi devo fidare, anche se poi in realtà lo sa solo lui, se è pentito, lo sa solo nostro Signore se lui è pentito, magari mi piacerebbe guardarlo negli occhi per poterlo capire. E ho dei dubbi, perché penso che per essere veramente pentito si dovrebbero seguire altri percorsi, lui dovrebbe parlare con me a lungo, dovrebbe capire quello che Antonio significava, quello che era la sua vita, vedere mio figlio, no? Però io spero nel suo recupero, credo che però in questa fase sia troppo presto che lui esca dal carcere, soprattutto perché ci sono delle grosse incongruenze. Noi il 12 di ottobre dovremmo andare ancora in aula, dovrà essere ancora valutata la perizia psichiatrica, perché se ne parlerà il 12. Quindi mi sembra una grossa incongruenza che il giudice mi dica di farlo uscire adesso, quando ancora non ma infatti questo però forse saranno anche tecnicalismi, il giudice non so su quale base abbia deciso. No, lui poteva continuare a stare dentro. E certo, questo sicuramente. E mi colpisce molto il fatto che durante il processo, col processo ancora in corso, si dia la possibilità di iniziare già un processo di recupero a una persona che non ha ancora la condanna, non ha ancora capito qual è l'entità della condanna che dovrà scontare. No, appunto, io è questo, cioè io non dico che Matteo non debba essere recuperato, sono la prima io che lo dico, perché anzi forse Matteo a me mi preme ancora di più, perché io non credo che né al giudice né al PM e né ai suoi avvocati, che punteranno ovviamente alle parcelle e gli interessi qualcosa di Matteo. Io su Matteo, il fatto di recuperarlo per me sarebbe una grossa vittoria, sarebbe dare un senso anche alla morte di Antonio e tutto quello che ha fatto, perché lui ci credeva nei giovani, e quindi questo per me sarebbe un significato importante. Ma credo che ci siano delle regole, cioè che ci siano, poi questo è un perdono che è sulla sfera umana, ma il carcere ci deve essere, cioè altrimenti facciamo ridere. No, ma è chiaro, il perdono rientra nella sua intimità. Siamo su un'altra sfera, certo. Cioè lui deve stare dentro adesso. Signora Claudia, io so che ieri lei ha parlato anche molto con Elisabetta Fusconi, la nostra redazione, so che lei è una persona, appunto, ma come si capisce già dalle queste parole, animata da tutto fuorché da una cattiveria nei confronti di Matteo, che ha fatto un gesto però così brutale e ha strappato la vita di suo marito. E quindi lei, so che anche si sente con la madre di Matteo. Sì, noi ci siamo sentiti, perché io ci tenevo, è stata lei la prima a contattarmi, ovviamente, perché non è stato un incontro facile, ci siamo visti più volte, e a me la madre di Matteo fa una tenerezza immensa, la sento molto vicina e cerco di mettermi nei suoi panni e di capire il suo dolore, e so che lei si è messa nei miei panni per capire il mio. Lei ha fatto una cosa molto bella, è venuta a vedere Antonio, cosa che io, quando Antonio ovviamente era in coma e la situazione non era per niente bella, neanche vederlo fisicamente con mezza testa non era uno spettacolo, e questa cosa io avrei voluto che succedesse anche a Matteo, cioè che anche lui potesse vederlo, purtroppo non l'abbiamo fatto in tempo perché Antonio è morto prima, quindi queste dovrebbero essere le cose che Matteo dovrebbe fare. Lunedì dovrebbe uscirà dal carcere per andare nella comunità di Don Mazzi. Lei lunedì che cosa pensa che proverà quando? Ma guardi, quello che prova adesso, cioè non cambierà nulla lunedì. Io sono veramente delusa e mi sento tradita, perché penso che tutto quello che mi è stato detto, anche dai suoi avvocati e da lui, che sono dispiaciuti, cioè le sento parole vuote. Perché Matteo, ripeto, adesso deve stare in prigione, Matteo deve stare lì, deve cercare di capire quello che ha fatto, e la fase, quella lì sarebbe stata una fase successiva, ma non adesso, tra qualche anno probabilmente, e magari non quel tipo di pena, perché io per Matteo mi auguro che lui debba lavorare e portare soldi frutto del suo lavoro a me, a mio figlio che ci ha strappato tutto quanto, oppure che lui vada in un centro di risveglio, come l'ho detto più volte, lo dissi anche ad una trasmissione televisiva, lui deve andare a vedere cosa ha combinato, non vedrà più Antonio, ma andrà in un centro di risveglio e vedrà cosa significa trattare e stare con malati in coma, quello deve fare, e ripeto, deve venire da me, io gli devo illustrare, gli devo far vedere quello che era Antonio, gli devo far vedere quello che era la sua vita, e far percepire queste cose, altrimenti io il suo dolore, il suo pentimento, a me chi me lo dice che è vero? Probabilmente il suo pentimento è una cosa, certo, mi sono rovinato la vita, quindi fine a se stesso. Mm. Certo. Ma non in funzione, non in funzione a quello che ha fatto, cioè dice non capirà mai fino a fondo quello che ha fatto finché non lo toccherà con mano. Non ha nemmeno la minima idea di quello che significa. Certo. Non lo può capire nessuno il nostro dolore, solo chi ci è passato. Ma si dovrebbe fare un tentativo proprio di dialogo con la famiglia oppure con certe strutture dove ci sono quel tipo di malati per capire veramente il valore della vita, perché la vita è sacra. La vita è sacra perché ci è donata da Dio e lui questa vita si è permesso di strapparla. Senta, signora Claudia, mi faccia sentire, ripeto, Claudia Francardi, la vedova del carabiniere Antonio Santarelli, ucciso da Matteo Gorelli, di 19 anni. Don Gino Rigoldi, la signora Claudia, che sente, parla con una straordinaria dignità e mai animata dal benché minimo odio o rivalsa nei confronti di questo ragazzo, però dice questo ragazzo deve stare in carcere adesso, poi ci sarà il tempo del recupero e tutto, ma questa decisione proprio non le può andare giù. Io direi una cosa di questo genere, che io sono in carcere da molti anni, una delle cose che facciamo preliminarmente e prima di ogni altra misura che può essere presa è che vogliamo essere assolutamente sicuri che questi ragazzi o ragazze, prima c'erano le ragazze, abbiano capito adeguatamente il male che hanno fatto e che si rendano conto in maniera profonda, perché noi li vediamo tutti i giorni, quindi non ci affidiamo alle loro parole, quanto piuttosto ai loro comportamenti, a tutta una serie di approfondimenti che si fanno, anche perché se non c'è una grossa maturazione nella consapevolezza del male che si è fatto, non cambia niente, non si recupera nessuno. E come si può pensare che ci possa essere, quando neanche c'è stato il processo, ma solo un giudice ha valutato che c'è un pentimento di un ragazzo che un anno fa ha compiuto questo gesto, appena un anno fa? Però il processo della presa di coscienza non è legato certo a un tempo, ma non è tanto legato a un carcere. Io direi due cose, che questo ragazzo andrà in comunità, ma immagino che sia una forma di detenzione simile alla detenzione domiciliare, cioè uno invece penso di sì, penso in di carcere sì. È di là. E poi credo che ci sia anche da dire questo, che io poi dovrebbe conoscere bene la situazione, ma ai minori noi ci occupiamo dei ragazzi e delle ragazze perché poi si capiscono il male fatto e possono pensare a futuro diverso. Nei carceri per adulti, dire ci occupiamo di qualcuno è una favola, perché se tu hai 200, 300, 500 persone in più, con il personale che hai non ti occupi proprio di nessuno, dai da mangiare, da dormire e poi curi che ci siano di ordine ed è finita lì. Cioè, quindi lei dice in carcere c'è il rischio che questo ragazzo venga buttato nel calderone e si perda la possibilità che di recupero. Ma sai, tanti casi per adulti, se io penso qui a Vigno San Vittore, con 600 persone in più del numero che può essere contenuto, certo per certuni, per i più giovani, ecco, per i più giovani certamente c'è un'attenzione particolare, ma poi nelle grandi carceri italiane tutto finisce nel calderone. È possibile, se io ipotizzo, no? che abbia pensato lo carceriamo tra virgolette da un'altra parte, sì, e lo perdiamo. Però direi che la signora ha detto una cosa molto importante, che io credo che bisognerebbe fare un po' sempre, cioè mettere chi ha offeso davanti alla vittima, perché questa presa di coscienza del male fatto è necessaria, ma non sempre è possibile, ma in questo caso a me pare che la possibilità ci sia anche, è molto importante. Potrebbe essere un modo per capire, però io fatemi fare questo, devo dare le informazioni sul traffico, è possibile, no? Ma vorrei partire proprio da qui, perché io invece ho dei dubbi, diciamo, mi permetto di manifestare questi dubbi, ma lo farò tra un attimo dopo le informazioni sul traffico. Eccoci qua, allora, insieme a Don Gino Rigoldi e nostra ospite oggi, Claudia Francardi, che è la vedova del carabiniere Antonio Santarelli, ucciso il 25 aprile 2011 a un posto di blocco mentre stavano per ritirare la patente a un ragazzo positivo all'alcol test. E questo ragazzo lunedì, quando ancora non c'è ancora una condanna in primo grado, lunedì uscirà dal carcere per andare alla comunità di Don Mazzi e iniziare il suo percorso di recupero. Senta, signora Claudia, i miei dubbi, sono questi, li vorrei esternare, come ha detto Don Gino Rigoldi, è giusto che ci sia una presa di coscienza, ma non crede che sia anche questo una scelta, voglio dire, da parte di Matteo personale, nel senso, se uno compie un delitto di quel genere terribile è giusto che sconti la sua pena, ma il proprio percorso, il volere magari affrontare lei, quello che ha fatto, il dolore di affrontare questa situazione, non crede che debba essere un qualcosa che può venire ma può non venire da questo ragazzo? Assolutamente sì, credo che sia una sua scelta personale, ma credo che se veramente lui voglia cambiare vita, come ha dichiarato, perché queste sono le sue dichiarazioni, che lui è fortemente pentito, da questa cosa non debba sottrarsi. Non può sottrarsi da questo. L'unica strada, una perlomeno delle strade che lui debba cominciare a seguire. Mi faccia sentire, ci sono immagini, come puoi immaginare, anche tantissimi ascoltatori. Ovviamente io ringrazio la signora per essere qui e do la linea a Maurizio da Bergamo, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Cosa vuole dirci Maurizio su questa buongiorno storia? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ovviamente mi schiero con la signora al 100%. Sì, ma non è che c'è da schierarsi qua. Sì, vabbè, però bisogna dire le cose come sono, perché qui continuiamo a parlare, ma poi i risultati sono questi, mi perdoni, cioè i risultati sono che questi ragazzi non sono più gestibili, fanno i comodi loro, si permettono per una multa, io ne ho presi tantissime di multe, a 58 sì. anni, si immagini, faccio il collaudatore di automobili, quindi sono soggetto tutti i giorni a questi fermi, però un po' di queste persone bisogna rispettarle che sono sulla strada, uno non gli può scoppiare il cervello e ammazza una persona e teniamo anche in considerazione che ha portato via un occhio all'altro, sì, questo sì, si è rovinato, chiaro. Due famiglie, ha rovinato l'altra e il giudice avanti via dopo un anno lo mandiamo in una comunità di recupero. Mi sembra una roba fuori dal mondo. Insomma, lei esprime questo sdegno. Signora, signora Claudia, lei ha espresso lo sdegno anche per la decisione del giudice, per tutto ciò che è avvenuto all'interno del processo, ma si sente anche abbandonata in qualche modo dallo Stato? In fondo suo marito faceva parte dell'arma dei carabinieri. No, guardi, questo non lo posso dire, anzi con forza le dico il contrario, perché l'arma di carabinieri, che è fatta da persone meravigliose, e continua a starmi vicino sempre, quindi io ho contatti, non dico quotidiani, ma quasi, sia con i colleghi di Antonio, sia con le alte sfere, quindi anche recentemente ho incontrato il nuovo generale della regione toscana e sono tutti molto molto premurosi nei miei confronti. So che lei ha provato anche, o meglio, ha provato durante un'udienza, ha cercato di incrociare gli sguardi, ha chiamato durante un'udienza del processo Matteo, cioè il ragazzo che ha ucciso suo marito. È stata una cosa viscerale, non era affatto programmata, solo che si è creata l'occasione perché per un attimo il giudice è uscito e quindi io me lo sono trovato davanti, era la prima volta che io lo vedevo. E la cosa è stata fortissima, perché trovarmelo davanti sembrava un ragazzino, poteva essere veramente mio figlio, con degli occhi teneri, e sembrava veramente impossibile che quell'esserino avesse combinato tutto quel macello. E io mi è venuto proprio da dentro, l'ho dovuto chiamare, l'ho chiamato Matteo, girati, Matteo però non assassino e non delinquente, quello che poteva venirmi da dentro, io l'ho chiamato per nome, lui si è girato e l'ho pregato urlando di guardarmi negli occhi, di vedere nei miei occhi il dolore, lui si è girato ma lo sguardo non ce l'ha fatta a trattenerlo, lui è stato lì 10 secondi, forse anche troppo, poi ha abbassato lo sguardo e ha cominciato a piangere. Poi è stato ovviamente protetto dalle guardie carcerarie, perché si sono messi, hanno fatto da scudo, perché queste cose non dovrebbero succedere, però certo. Sono un essere umano, sono fatta di carne e quindi è normale che questo motto sia venuto da dentro così, un impeto forte. Secondo lei in questa comunità, almeno a questa speranza, potrà imparare qualcosa Matteo di quello che... cioè crede almeno che possa esserci questo, al di là della decisione che lei giustamente ha già definito scandalosa in questo momento, sbagliata, magari anche profondamente irrispettosa nei confronti del dolore che lei prova, pensa che però almeno serva qualcosa? Ma io me lo auguro profondamente, perché come le ho detto dall'inizio, a me il recupero di Matteo mi interessa, ma mi interessa veramente, non lo dico solo a parole, però lei capisce, allora un omicidio dovrebbe prevedere una pena, l'ergastolo, con il rito abbreviato si va a 30 anni, Allora, da 30 anni passare che dopo un anno lui va in comunità, è questo che mi fa arrabbiare. Poi che lì usino dei mezzi migliori del carcere, che lui possa recuperare, io me lo auguro. Questa comunità la vorrò conoscere, perché chiaramente vorrò parlare con Don Mazzi, vorrò capire che cosa fanno, perché io sono una persona che poi le cose le approfondisce, quindi mi farà piacere capire quello che viene fatto, i percorsi che farà Matteo, e sarei felice di sapere quello che avverrà lì dentro. Però, ripeto, sia forte questa cosa, è troppo presto. E a Don Gino Rigoldi, che dice la presa di coscienza di ciò che uno ha fatto comunque non passa mai attraverso il carcere, soprattutto carceri come sono in Italia, affollati, dove poi le persone si perdono, anche lei che risponde? Questo non è Grosseto. Grosseto è un carcere familiare dove lui poi incontra uno psicoterapeuta, dove incontra Don Enzo Capitani, che tra l'altro è un mio amico ed è il cappellano del carcere, dove ha lavorato, dove tutte le persone credo gli siano amiche, quindi la struttura di Grosseto non è paragonabile ad altre strutture carcerarie, quindi da questo punto di vista Matteo è stato molto fortunato, e so che lui stava anche molto volentieri lì dentro. Don Gino Rigoldi, vogliamo sperare che almeno che possa servire questa... Effettivamente è una decisione che fa un po' scalpore, ce ne sono tante di questo anche genere. Perché io vedo quel Beccaria, si tratta di minorenni, due, tre, quattro, insomma, abbiamo avuto Eric che sta lì 10 anni, tutto sommato, con gli altri che abbiamo, recentemente è successo un processo d'appello per un ragazzino che aveva era un corso intentato omicidio, ma si è preso 5 anni e 8 mesi, insomma, è dentro ancora adesso. Quindi c'è una situazione diversa che immagino Grosseto avrà potuto anche forse verificare di più la personalità, forse ci sarà questo elemento in più, ma anche a me pare che un anno dopo, mentre il processo viene celebrato, di solito da noi i ragazzi poi escono, i minorenni possono uscire anche il giorno dopo aver commesso il reato, tecnicamente, ma di solito succede quando sono definitivi, quando c'è una pena, ma almeno di primo grado, voglio dire, un primo grado di giudizio, ecco. Io mi devo fermare qui, signora, la ringrazio moltissimo, perché immagino non sia stato neanche, e non sia facile, insomma, raccontare ogni volta questa vicenda. Signora Claudia Francardi, per essere stata con noi, ovviamente facciamo tanti auguri, le mandiamo un grosso abbraccio da Radio 24 per quanto possa servire, e seguiremo ovviamente la sua vicenda. Grazie per essere stata con noi, buona giornata. Così come Don Gino Rigoldi, vi ricordo che potete riascoltare tutto su radio24.it. Se volete seguirci, siamo anche su Twitter, 24 mattino è l'account della trasmissione. Io invece sono Alino Milan, potete seguirmi. Un saluto da tutti, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Vescapè, c'è anche Massimo Brugnone in redazione, insomma da tutti noi. Ci ritroviamo lunedì alle 6:30.